Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Marzo 1971. Caro Michele, sono di nuovo in piedi da 2 giorni e sto bene. Mi sento ancora un po' fiacca, ma passerà. Avrei avuto gran piacere di una tua lettera, ma tu sei avaro di lettere con tua madre. Ho comunque avuto tue notizie da Angelica. Sono contenta che hai una casa graziosa, o almeno io la immagino graziosa, con quel piccolo giardino e quella moquette. Non ti vedo a passare il rullo sulla moquette. Non ti vedo nemmeno a coltivare le rose. E mi sento in questo momento lontanissima dalle rose. Ho la sensazione che non saprei coltivarle. Eppure sono venuta a stare in campagna anche con questo scopo. Può darsi che sia perché ancora dura l'inverno, fa ancora abbastanza freddo, piove spesso. Ma ho l'idea che nemmeno quando sarà primavera mi occuperò di questo mio giardino. Ho l'idea che chiamerò un giardiniere e io, da parte mia, non toccherò una foglia. Io non ho il dito verde, come dicono che abbia Ada. In particolare le rose mi ricordano la casa di Via dei Villini, dove c'era quel bellissimo rosaio proprio sotto la mia finestra, in quel giardino non nostro, ma dei nostri vicini. In parole povere, le rose mi ricordano Filippo. Non è che io non voglio ricordarlo, e d'altronde lo ricordo in 1000 istanti, e le strade che mi portano alla sua persona nella memoria sono innumerevoli. Ma le rose devo averle guardate in quel momento che lui mi diceva che tutto era finito. E così adesso, quando vedo un rosaio, sento la sensazione improvvisa di cadere nel buio. Quindi in questo mio giardino ci saranno magari dei fiori, ma non ci saranno rosai. Siccome tu e io siamo simili per molti aspetti, non ti credo tagliato a occuparti di fiori. Ma è possibile che tu in questi mesi sia diventata una persona diversa da quella che io conoscevo e diversa da me. Ed è possibile che Aileen faccia di te una persona ancora diversa. Ho fiducia in Aileen. Credo che mi sarà simpatica. Vorrei che tu mi mandassi una sua fotografia. Quella che hai mandato è così piccola, non si vede altro che un lungo impermeabile. Tu mi dici che è molto intelligente. Anch'io, come te, amo l'intelligenza. Ho sempre cercato di vivere con delle persone intelligenti. Tuo padre era strano e geniale. Non siamo riusciti a vivere insieme, forse perché eravamo 2 personalità troppo forti e ognuna richiedeva intorno a sé una grandissima porzione di spazio. Filippo è strano e molto intelligente. Purtroppo si è distaccato da me. È completamente uscito dalla mia vita. Non ci vediamo più. Avremmo potuto rimanere amici se io avessi voluto, ma non ho voluto. Avremmo comunque dovuto incontrarci in presenza di quella donnetta dal viso ossuto che lui ha sposato. Deve essere una donnetta completamente stupida. Ma forse il suo rapporto con me lo affaticava. Io non credo di essere molto intelligente, ma forse ero troppo intelligente per lui. Non tutti amano l'intelligenza. Ho un ricordo molto bello dei miei anni con Filippo, anche se tutto poi è precipitato in questo buio. I ricordi che ho di lui sono ricordi meravigliosi. Non ha mai voluto venire ad abitare con me, prendendo pretesti vari. I suoi studi, che sarebbero stati disturbati dalle gemelle, o la sua salute, o la salute di sua madre. Ma erano tutti pretesti. In verità lui non aveva voglia di vivere con me. Forse non mi amava abbastanza. Ma ho ugualmente un bel ricordo di quelle ore in cui veniva in casa nostra, in Via dei Villini. Giocava a scacchi con Viola e Angelica, sentiva le lezioni alle gemelle, cucinava il riso al curry, Batteva a macchina nella mia stanza quel suo libro che poi ha pubblicato, Religione e dolore. Ho pensato molto a Filippo durante questa mia malattia e gli ho anche scritto una lettera che poi ho stracciato. Giorni fa gli è nata una bambina. Mi hanno mandato un bigliettino con una cicogna rosa che vola. Scemi. La bambina l'hanno chiamata Vanessa. Scemi. Dimmi tu se è nome da mettere a una bambina. Sono qui nella mia stanza a scriverti col caminetto acceso. Vedo dalle finestre il nostro giardino nudo e piatto, senza fiori, con due lampioni di ferro battuto finta carrozza, scelti da me senza nessuna convinzione, e con i due abeti nani scelti da Matilde e da me detestati. Vedo anche il paese in lontananza e le colline con la luna. Ho un vestito nero, che credo che mi stia bene, e mi butterò sulle spalle quando scenderò a cena il mio scialle spagnolo, che mi aveva regalato tuo padre forse 20 anni fa, e l'ho tirato fuori da una cassapanca dove era in naftalina. Vengono a cena Osvaldo e l'editore Colarosa. L'editore Colarosa l'ha invitato Matilde. Meritava un invito a cena perché Matilde gli ha rotto l'anima in tutti i modi possibili. Devi sapere che Polente Veleno è finalmente uscito. Abbiamo copie di Polente Veleno ovunque nella casa. Matilde ne ha preso una copia con dedica. Perciò tu vedrai le zolle, il sole e la zappa. La copertina l'ha disegnata a Matilde. L'editore Colarosa suggeriva una riproduzione di un quadro di Van Gogh. Ma non c'è stato verso. Matilde, quando si caccia in testa una cosa, nessuno la smuove. Le hanno detto tutti che la copertina che aveva disegnato sembrava un manifesto del Partito Socialista. Non c'è stato verso di dissuaderla. Matilde ieri è andata a Roma a comprare lo champagne che berremo stasera. Ha deciso lei la cena. E oggi è stata tutto il giorno in cucina innervosendo Cloti, già nera e nervosissima. Ci sarà sartù di riso, vol au vent con besciamella e pollo, zuccotto. Ho fatto notare a Matilde che erano tutte cose tonde. Inoltre le ho fatto notare che erano tutti piatti pesanti. Una cena così può ammazzare un toro. Matilde poi vuole che le gemelle stasera si sciolgano i capelli e mettano i loro abiti di velluto con il collarino di trina. Lei si metterà la gonna nera del suo tailleur con una camicia da cosacco. L'editore Colarosa io non lo conosco ancora. Matilde mi ha detto che è basso, con la testa incastrata nelle spalle e un naso mai visto. Volevo che venisse anche Ada, ma Osvaldo mi ha spiegato che Ada e l'editore Colarosa erano amanti e adesso hanno rotto. Lui adesso sta con quella tua amica, Mara Castorelli, piovuta in casa sua di sera tardi con il suo bambino. Pensare che era stata Ada a raccomandare a lui Mara, e Mara velocemente gliel'ha soffiato. Non so se stasera verrà anche Mara. Io ho detto che venisse pure, ma sembra che non sapesse come lasciare il bambino. Comunque un'altra sera inviterò Ada. Non la conosco ancora ed è stata con me di una gentilezza indicibile. È merito suo se mi metteranno il telefono. Non mi sembra vero che avrò il telefono, e subito ti telefonerò. Ma l'idea di telefonarti mi mette in agitazione. Io credo di non avere più i nervi e il cuore molto forti. Pensare che ero un toro, ma ne ho passate troppe. Così sono diventata fragile. Ecco, ora ho sentito la macchina. Eccoli arrivati. Devo lasciarti. Tua madre. Dalla macchina ho visto scendere anche una piccola persona con un pelliccione di visone. Deve essere Mara. '26 marzo 1971. Caro Michele, qualche sera fa ho cenato a casa di tua madre. Non è stato divertente. C'erano Osvaldo, Angelica, il pellicano, tua zia, tua madre e le tue sorelle piccole. Non so perché una volta desideravo tanto di vedere tua madre e di esserle simpatica. Forse perché speravo che mi aiutasse a sposarti. Io non ho mai desiderato di sposarti, sia chiaro. Almeno non ho mai capito che lo desideravo. ma forse per disperazione lo desideravo senza saperlo. Avevo quella sera da tua madre una gonna lunga, nero e argento, comperata apposta nel pomeriggio col Pellicano, e la mia pelliccia di visone, comperata ugualmente col Pellicano 5 giorni fa. La pelliccia me la sono sempre tenuta sulle spalle perché in casa di tua madre fa un freddo boia. I termosifoni sono difettosi. Con quella gonna, con quella pelliccia, io mi sentivo in principio, non so spiegarti perché, dolce e piccola piccola. Desideravo che tutti mi guardassero e mi trovassero dolce e piccola. Ero così piena di questo desiderio che mi usciva dalla gola una voce dolce e sottile. Ma poi a un certo punto ho pensato, questi qua magari stanno pensando che sono una puttana di alto bordo. Le parole puttana di alto bordo le avevo lette in un romanzo giallo quella mattina. Appena le ho pensate mi sono cascate addosso come un sasso. Poi mi è sembrato che tutti fossero freddi con me. Anche Osvaldo, anche Angelica, anche il Pellicano. Il Pellicano se ne stava buttato in fondo a una poltrona con un bicchiere. Si accarezzava i capelli, si accarezzava il naso. Non lo arricciava, se lo accarezzava piano piano. Tua madre la trovo bella, ma non so se mi è simpatica. Aveva un vestito nero e uno scialle a frange. Giocava con le frange dello scialle e con i suoi capelli, che sono ricciuti e rossicci e precisi ai tuoi. Ho pensato che se tu fossi stato in quella stanza, tutto sarebbe stato semplice per me, perché tu lo sai benissimo che io non sono una puttana, né di alto bordo né di basso bordo. Tu sai che io sono solo una ragazza e basta. Il caminetto era acceso, ma io avevo freddo lo stesso. Tua madre mi ha chiesto di dove ero, e io le ho detto che ero di Novi Ligure. Mi sono messa a raccontare un po' di bugie su Novi Ligure. Ho detto che io ho una casa molto bella e molto grande, con tanti cugini che tutti mi aspettano affettuosamente, e che ho là una cara e vecchia balia e un fratellino che adoro. La balia è in verità una vecchietta che viene dai miei cugini a cucinare. Al mio fratellino gli voglio bene, ma non gli scrivo mai. Quella casa dei miei cugini non è niente di speciale come casa. È sopra il negozio. Il negozio è un negozio di piatti. I miei cugini vendono i piatti. Non l'ho detto. Ho detto che erano tutti avvocati. Tua madre e Angelica si davano da fare in cucina perché la donna di servizio di tua madre improvvisamente si era sentita male e si era cacciata a letto. In verità si era offesa con tua zia per un'osservazione sul volo van. Questo me l'ha detto Angelica. Le tue sorelle piccole si rifiutavano di aiutare perché dicevano che erano troppo stanche. Erano andate a giocare a pallavolo. Avevano le tute da ginnastica e non si erano volute cambiare. E tua zia anche per questo si era arrabbiata. E anche perché il volo van era tutto molle e liquido di dentro. A me a un certo punto mi è venuta una grande malinconia. Ho pensato, ma io cosa ci faccio qui? Dove sono? Che razza di pelliccia mi trovo addosso? Che specie di persone sono queste, che non mi domandano quasi niente e quando parlo sembra che non sentono? Ho detto a tua madre che volevo portarle il mio bambino a vedere. Mi ha detto di portarglielo, ma senza nessun entusiasmo, l'ha detto. Morivo dalla voglia di mettermi a gridare che il bambino è tuo. Se ne fossi stata sicura al 100% l'avrei gridato. C'erano là le tue fotografie di quando eri piccolo. Io le ho prese in mano e trovavo che il bambino ti rassomiglia nel mento, nella bocca. Ma è difficile essere sicuri. Le rassomiglianze sono una cosa sempre così incerta. Loro parlavano poco, ma io non capivo una parola delle poche cose che dicevano. Sono intellettuali. Io morivo dalla voglia di gridare che li trovavo tutti dei grandi stronzi. Non mi piaceva più nemmeno Angelica. Non capivo nessuno. Il Pellicano era là, serio serio. Non mi guardava. Io ogni tanto gli accarezzavo una mano. Lui tirava subito via la mano. Avevo l'impressione che quando io parlavo era sulle spine. Non mi aveva mai visto in mezzo alle persone. Forse si vergognava di me. Alla fine della cena hanno versato lo champagne. Io ho detto, faccio tanti auguri per Polenta e Castagne. Avevo sbagliato il titolo. Il pellicano mi ha corretto. Io ho spiegato che mi ero confusa per via di quella canzone che dice «Non andare sulle montagne, mangerai sol polente e castagne, ti verrà l'acidità». Mi sono messa a cantare tutta la canzone. È una canzone tanto carina e io ho una voce intonata. Tua madre sorrideva un poco, Osvaldo sorrideva un poco, il pellicano non sorrideva niente, le gemelle non sorridevano niente. Mi sono accorta che stavo cantando in mezzo a un gran gelo. Tua zia continuava a dare a bussare dalla donna di servizio per offrirle il vol-au-vent e altre pietanze, ma riveniva indietro mortificata perché quella rifiutava tutto. Siamo tornati nella 500 di Osvaldo, io, Angelica e il pellicano. Io ero seduta dietro col pellicano. Gli ho detto, non so cos'hai con me, non so cosa ti ho fatto. Non mi hai detto una parola in tutta la sera, non mi guardavi mai. Ha detto, ho molto mal di testa. Ma Cristo, hai sempre mal di testa? Gli ho detto, che infatti ha sempre mal di testa. Se ne stava schiacciato in fondo alla macchina. Sembrava che gli desse noia a toccarmi. Allora io mi sono messa a piangere, non forte, in silenzio, con le lacrime che mi bagnavano la pelliccia. Angelica mi ha carezzato un ginocchio. Osvaldo guidava e non si è voltato. Il pellicano sempre rimpiattato nel suo angolo, stretto nel cappotto col naso immobile. Era tremendo piangere in quel gelo. Era ancora peggio che cantare nel gelo, molto peggio. Il bambino io l'avevo lasciato a casa con Belinda, la donna di servizio. Era meglio se me lo portavo dietro. Questa Belinda coi bambini non ha nessuna pazienza. Il bambino l'ho trovato che urlava. Belinda era in piedi e mi ha detto che lei ha diritto alle sue ore di sonno. Ho detto che anch'io ho diritto alle mie ore di svago e di sonno. Mi ha risposto che io non ho diritto a niente. Non ho risposto subito. Le ho sbattuto la porta sulla faccia, poi le ho gridato che la licenziavo. Però l'ho già licenziata un mucchio di volte. Dice che non se ne va. Dice che deve dirglielo il dottore. Il dottore è il pellicano. Il bambino ha pianto tutta la notte. È tremendo. Mette i denti, povero bambino. Io l'ho sempre passeggiato nel soggiorno, avanti e indietro, con le lacrime che mi scendevano. Verso mattina si è addormentato, l'ho messo nella sua carrozzina. Mi faceva pena perché era stanco di piangere, sudato, molle, coi capelli sudati appiccicosi, addormentato come uno straccio. Mi facevo pena anch'io perché ero stanca, morta, sempre con la mia gonna nero e argento. Non avevo avuto il tempo di cambiarmi. Sono entrata in camera da letto. Il pellicano era lì, sveglio, disteso con le mani intrecciate sotto la testa. Mi ha fatto una pena immensa. Mi faceva pena il suo pigiama, la sua testa sul cuscino, il suo naso. Gli ho detto, non credere che posso continuare a fare questa vita. Bisogna prendere una bambinaia. Ha detto, una bambinaia? Come se cascasse dalla luna. Quando me ne stavo sola, ho detto, in via dei prefetti, il bambino magari un poco lo lasciavo anche piangere, ma qui non posso perché tu hai mal di testa. Non credo che ho voglia di avere qui anche una bambinaia, ha detto. Non credo che ne ho proprio nessuna voglia. Allora io tornerò a stare sola, ho detto. Non ha risposto. Siamo rimasti lì fermi. Distesi, gelati come due morti. Ti avevo detto in un'altra lettera che io e il pellicano ci saremmo sposati. Era una sciocchezza. Fai finta che non l'ho mai detto. La lettera stracciala, perché mi vergogno di averlo detto. Non si è mai sognato di sposarmi e forse non lo voglio sposare nemmeno io. Adesso è andato via. Prima che uscisse gli ho gridato... E non trattarmi come una puttana d'alto bordo. Non avevo più niente, la voce sottile di quando mi sento piccola e buona. Mi era venuto fuori una vociaccia rauca da portinaia. Non mi ha risposto niente. È andato via. In certi momenti mi sento furiosa. Dico, Io sono tanto carina, tanto bella, tanto giovane, tanto buona. È un bambino così bello. Gli faccio il grande onore a questo qua di starsene in casa sua e gli spendo i suoi soldi che non gli servono a niente. Ma insomma, cosa vuole questo rotto in culo? Io in certi momenti sono furiosa e penso così. Ad alta voce, Anna Bonaiuto ha letto Caro Michele di Natalia Ginzburg. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.